Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ogni compromesso è ovviamente contrario al riconoscimento di diritti, quindi noi siamo in grado in questo momento di mantenere l'impianto della legge e di trovare nuovi numeri in aula per chiedere chi ci sta. Ma chi ci sta a cosa? Chi ci sta a rispettare l'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza. Le discriminazioni sono contrarie all'uguaglianza. È ottimista, tutto sommato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la senatrice del PD Monica Cirinnà, che è la prima firmataria del disegno di legge sulle unioni civili. Dopo il caos di ieri, dopo l'amarezza, almeno dal punto di vista del PD, per il fatto che i 5 Stelle hanno annunciato ieri di non voler votare super canguro del PD, che avrebbe eliminato una serie di richieste, di emendamenti, di modifiche, eccetera. Il Movimento 5 Stelle, però, da parte propria dice in realtà noi lo abbiamo fatto per amore della democrazia, per non essere costretti a arrivare a procedure che non riteniamo giuste, quelle appunto di fare un maxi emendamento per cancellare gli altri. Però evidentemente molti non hanno capito questo passaggio del Movimento 5 Stelle, tanto è vero che varie associazioni lesbiche, gay, transessuali, bisessuali, eccetera, stanno protestando o attraverso delle note, dei comunicati, e adesso addirittura davanti al teatro Brancaccio a Roma, dove c'è Grillo che sta facendo il suo ultimo spettacolo, c'è un sit-in dell'associazione Gay Center, che ha chiamato a raccolta varie persone omosessuali e non solo, per protestare contro Grillo e questa mossa di ieri del Movimento 5 Stelle. Quindi, per chiarire i motivi degli uni e degli altri, ci saranno qui stasera Effetto Notte, tra poco un esponente del Movimento 5 Stelle, un esponente del PD. Se mi sentite con la voce un po' così e mi sentirete tirare su col naso varie volte, non vi scandalizzate, è freddo il mio grande nemico, non per niente. Il venerdì, quando parliamo di meteo, aspetto sempre che si annunci l'estate, ma mi pare ancora piuttosto lontana. Parleremo di moltissime cose, in particolare di questo, ma poi anche di un problema di privacy legato ad Apple, che non vuole dare, decriptare il numero di telefono di un iPhone, del killer di San Bernardino. Insomma, molte questioni interessanti. Anche questa sera, come al solito, all'inizio vi faccio un riassunto della giornata per avere il quadro completo di quello che è successo in Italia e nel mondo. E voi continuate pure, come già state facendo, sempre su questo tema delle unioni civili, è veramente un tema infuocato, con i vostri messaggi e le vostre opinioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lo sapete è sempre lì per voi giorno e notte, oppure attraverso i messaggi di SMS al 349-238-6666. Turchia è di almeno 28 morti e 61 feriti il bilancio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Ankara. Unioni civili, rinviato l'esame del disegno di legge Cirinnà, ha vinto il buonsenso, dice Alfano, ma il PD difende il testo con le adozioni e dice avanti tutta. RAI nominati nuovi direttori, Daria Bignardi a RAI 3, sono stati premiati merito e autonomia, dice Campo Dall'Orto, critico però il sindacato. I rapporti con l'Unione Europea, Renzi insiste con l'Europa, noi i compiti li facciamo e lei non prendiamo ordini, e sulla Brexit dice serve un compromesso. Il viaggio del Papa in Messico, Francesco lancia un appello ai giovani, non lasciate la vita in mano ai narcos, visita poi un carcere e sgrida un giovane che lo fa inciampare. Guerra di privacy, Apple dice no al giudice americano che chiede di decriptare l'iPhone del killer di San Bernardino e Apple risponde non si toccano. Calcio in Champions League, super sfida in campo l'Olimpico, la Roma tenta l'assalto al Real Madrid. Partiamo quindi dal bilancio dell'esplosione di un'autobomba questa sera nel centro di Ankara, capitale turca, al passaggio di un convoglio militare. Il bilancio è salito ad almeno 28 morti, 61 feriti, lo ha detto il vice primo ministro e portavoce del governo turco, spiegando che tra i morti probabilmente ci sono anche civili. Lo chiediamo a Marco Barbonaglia dalla Turchia. Marco. Buonasera, sì, il bilancio continua a salire ed è assolutamente logico che ci siano anche dei civili, comunque si può pensare questo perché si parla di un attacco portato pare con un'autobomba in pieno centro nella capitale. Non c'è pace ultimamente in Turchia, Marco? Sì, e questo è un attacco anche diverso dagli altri, non meno pericoloso come stiamo vedendo, portato in una zona, non in una zona qualsiasi, perché stiamo parlando di una zona a poche centinaia di metri dal quartiere generale dell'esercito, dal Parlamento e dagli uffici del primo ministro, un attacco a un convoglio militare. Quindi i sospettati numero uno sono il PKK, sospettato numero uno, e le modalità l'obiettivo dell'azione è una sorta di marchio di fabbrica, e d'altra parte è l'esercito stesso turco in questo momento ad alti livelli a puntare il dito contro il PKK. Ricorda chi è cos'è il PKK, Marco Barbonaglia? Il Partito dei Lavoratori Curdi, un'organizzazione terrorista indipendentista curda che combatte da anni, da oltre 30 anni, e che è in questo momento oggetto di una forte, fortissima offensiva dell'esercito voluta da Erdogan in persona. Questa è, oltretutto, si incrocia questa offensiva con la guerra con in Siria, i bombardamenti, no? In Siria. Perché più che colpire l'ISIS è accusata da tempo la Turchia di attaccare invece appunto i curdi nel sud del Paese. È una situazione abbastanza particolare, nel senso che gli americani ammettono per esempio che il PKK sia un'organizzazione terrorista, ma dicono che il PYD, che è il partito gemello del PKK in Siria, non lo è. In effetti il PYD sta combattendo l'ISIS, sono l'unica forza di terra, fino a pochi giorni fa, che stava combattendo l'ISIS. Quindi la Turchia vede questo con grande fastidio e usa l'attacco all'ISIS, la lotta all'ISIS, per attaccare in realtà questo che è il suo vero bersaglio da parecchio tempo ormai. Grazie Marco Barbonaglia dalla Turchia, e poi se ci sono ulteriori aggiornamenti, perché man mano in serata si è aggiornato purtroppo questo bilancio. E vi do anche una notizia che è uscita veramente pochi istanti fa, che riguarda la morte, vi ricordate, del piccolo Loris, di cui è accusata la madre Veronica Panarello a Ragusa in Sicilia. Beh, la notizia è che è indagato il nonno per omicidio in concorso. La procura di Ragusa ha indagato per omicidio e occultamento di cadavere Andrea Stivali, il suocero di Veronica Panarello, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del nipote dell'uomo Loris. Nell'iscrizione si sottolinea in ambienti attivi nelle indagini, è un atto dovuto dopo le dichiarazioni della donna, e avevo anticipato questa cosa qualche giorno fa, che lo ha chiamato in corretà come complice il suocero, sostenendo che erano amanti. Passiamo alla politica. Con le unioni civili, rinviato l'esame del disegno di legge Cirinà il 25 febbraio, ha vinto il buonsenso, dice Alfano, ma il PD difende il testo con adozioni, stepchild adoption inclusa, e dice avanti tutta. E dopo lo scontro di ieri e le dichiarazioni di oggi, appunto, cercheremo di capire, come dicevo, qualcosa di più di ciò che è avvenuto ieri tra il PD e il Movimento 5 Stelle, con due parlamentari, Giuditta Pini per il PD e Alberto Airola del Movimento 5 Stelle. Rai, il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, ha scelto i nuovi direttori delle reti Rai, nomi che dovranno essere approvati domani dal Consiglio di Amministrazione. Tra i nomi più noti, quello di Daria Bignardi a Rai 3, ma non mancano le polemiche, di cui parleremo qui a Effettonote più tardi. E in Lombardia sarà discussa nella prossima riunione del Consiglio regionale la mozione di sfiducia da parte del PD al governatore Maroni, dopo l'ultima inchiesta che ha coinvolto il suo braccio destro Rizzi. Ne abbiamo parlato ieri. Domani gli interrogatori di garanzia, ma dagli atti emergono nuovi dettagli. Siamo in una botte de fer. Tra il romanesco e il milanese Fabio Rizzi rassicurava la moglie, preoccupata di finire a fare spettacoli burleschi in galera. E in effetti agli arresti ci sono finiti entrambi in quest'ultimo scandalo sanità che scuote la Lombardia di Roberto Maroni, contro cui le opposizioni preparano una mozione di sfiducia. Dagli ospedali in Brasile e Cina all'odontoiatria, alla compravendita di zucchero con la Russia, quantificano le aspettative di guadagno marito e moglie, che quando parlano di un commercialista dicono che c'è il mandato da fare evasione totale. Tra una ripartizione e l'altra, Rizzi e Signora si rendono conto che almeno il mutuo da 5.000 euro al mese sarebbe saldato con questi affari, che rimandano al rapporto tra politica e Maria Paola Canegrati, regina dell'ortodonzia, che aveva pagato al 100% la campagna elettorale di Rizzi, confida il suo collaboratore Longo. E in questa grande famiglia, per dirla con le parole della nuova zarina, aveva interesse ad entrare pure l'ex assessore Mario Mantovani, arrestato in altra inchiesta. Rizzi fa sapere ora che si difenderà da tutte le accuse, ma nel frattempo l'indagine mette in moto un nuovo terremoto al Pirellone. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo sul tema dell'immigrazione. Domani ci sarà un Consiglio europeo su questo tema, l'ennesimo. Oggi intanto l'Austria ha annunciato che metterà un limite alle frontiere dei migranti in cerca dello status di rifugiato. Ha fissato l'annunciata quota giornaliera per i profughi. Confini con l'Italia blindati. Da oggi l'Austria non accetterà più di 80 domande d'asilo al giorno. Lo ha comunicato il ministro dell'interno austriaco Mick Leitner, la quale ha fatto sapere che inoltre verranno fatte transitare non più di 3.200 persone al giorno che vogliono trovare tutela internazionale in uno stato confinante. Il premier Renzi, intervenendo oggi sul tema in Senato, ha deplorato la paura che a suo dire domina le decisioni politiche austriache. Capisco il dibattito sul Brennero, ma quel passaggio rappresenta la fine di secoli di guerre, ha detto Renzi. Poi, così, il premier sui rimpatri. Chi non ha diritto all'accoglienza va rimandato a casa. Noi lo diciamo dal primo giorno. È altrettanto vero che deve essere l'Europa ad assumersi la responsabilità. responsabilità di fare degli accordi di rimpatrio. Non è possibile avere regole separate per 28 paesi. A intervenire sul tema dei migranti oggi anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Salvare vite umane e tendere la mano a quanti fuggono dalla guerra o dalla miseria è un dovere morale, è un dovere di qualunque società che intende definirsi libera e democratica, ha detto il Capo dello Stato, aggiungendo che è un impegno che l'Italia orgogliosamente onora ogni giorno. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo sulla pagina estera col viaggio del Papa in Messico. Si conclude a Ciudad Juárez il viaggio del Pontefice, che atterrerà domani a Ciampino alle 14.45. La città è nella parte settentrionale del paese, del Messico, separata dagli Stati Uniti da una barriera, e ogni anno 500.000 messicani senza documenti o con documenti falsi cercano di passare il confine, e solo un quarto viene individuato e fermato, e ogni anno si contano 400 morti, soprattutto nel deserto, ricordati con centinaia di croci affisse sul lato messicano di quello che è stato ribattizzato il muro dell'umiliazione. Ma questa cittadina, Ciudad Juárez, va soprattutto ricordata per l'orrendo primato del maggior numero di donne violentate, torturate, uccise, migliaia dagli anni 90, senza che nessuno abbia pagato, perché anche la polizia e varie istituzioni sono coinvolte. E chi ha tentato, uomini e donne, di far luce su questo progressivo massacro sono stati eliminati. Di nuovo in Italia, ha superato 16 miliardi di euro nel 2015 il business delle agromafie, lo rivela un rapporto Coldiretti e Eurispes. Dai ladri di polli alle bande specializzate nei furti di intere mandrie o di carichi d'olio, dall'usura al racket estorsivo, passando per l'abusivismo edilizio e le macellazioni clandestine o il danneggiamento di intere piantagioni a scopi intimidatori. Il fenomeno delle agromafie, cioè della criminalità organizzata nel campo agroalimentare, non risparmia nessun settore e nessun luogo, da nord a sud del paese. È in crescita con 16 miliardi di euro di fatturato nel 2015, dati che emergono dal rapporto realizzato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità, il cui presidente è il procuratore Giancarlo Caselli. E la loro filosofia è quella di sempre: piatto ricco, mici ficco. Nell'agroalimentare c'è da guadagnare, ecco che inesorabilmente le mafie ce le troviamo. Ma dal punto di vista della sicurezza alimentare invece gli italiani possono dormire sonni tranquilli. Sono oltre 100.000 i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel 2015, e su questo l'Italia vanta il primato europeo. È un comparto caratterizzato da controlli scrupolosi, severi, efficacissimi, che fanno sì che il nostro paese sia all'avanguardia in Europa. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E scontro sulla privacy tra la Apple e un giudice federale statunitense. Apple dice no, questo giudice americano che chiede di decriptare l'iPhone, il telefono del killer di San Bernardino. Dice i dati sono segreti, non si toccano. Perché può farlo effettivamente la Apple così come gli altri operatori? Ce ne occupiamo più tardi. Cinema, è morto a 75 anni, malato da tempo, il regista e scrittore polacco Andrzej Żuławski. Era ex marito dell'attrice francese Sophie Marceau, che aveva 26 anni meno di lui. Raggiunse il massimo della notorietà negli anni 80 con Possession. E vedo una notizia di adesso, di questi istanti: la Nike ha rescisso il contratto di sponsorizzazione col campione di box Manny Pacquiao, lo rende noto la CNBC, la decisione dopo le durissime polemiche sulle frasi omofobiche pronunciate dal pugile in un dibattito TV nelle Filippine in vista delle elezioni del prossimo maggio. Era di ieri questa dichiarazione, aveva detto gli omosessuali peggio delle bestie, così ha deciso Nike in questo modo. Ma siamo al calcio con la Champions League, Dario Ricci. Eccoci Roberta, siamo intorno alla mezz'ora all'Olimpico di Roma, Roma-Real Madrid, andata degli ottavi di finale, risultato ancora di 0-0, ma boccino come prevedibile sempre tra i piedi del Real, che sta stringendo d'assedio l'area giallorossa, pur non creando grandi pericoli, in effetti, ma la Roma di fatto fa fatica a uscire dalla propria tre quarti. Risultato comunque ancora fermo sullo 0-0, così come ancora sullo 0-0 sono nell'altra sfida Ghent e Wolfsburg. Poi c'è giorni dopo, caro Darici, io vi aggiorno. Assolutamente sì. Ciao Dario, vediamo se la Roma riesce a fare qualcosa. Vi aggiorno sui vostri messaggi intanto, dicevo, i primi che arrivano sono già tanti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, gli sms al 349-238-6666. Amarezza di che, dice un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, a proposito di Monica Cirinnà, senatrice PD, dice: io stasera a cena brindo con lacrime di Cirinnà. Poi un altro messaggio, questo di Paolo da Modena: perché il PD non se la prende con i cattodem? Il problema è loro, se lo risolvano. Dice Paolo. Lorenzo da Roma: avevo simpatia per i 5 Stelle e mi accingevo a voltarmi a voltarmi o alle prossime amministrative, probabilmente a votare per loro, ma ora sono molto ma molto indeciso perché i Volta Gabbana non mi vanno a genio e loro l'hanno fatto più volte, così dice Lorenzo da Roma. Poi un altro messaggio: il Movimento 5 Stelle cerca una scusa per non prendersi responsabilità, ma cosa ci vogliamo aspettare dopo la dichiarazione della Taverna? Paola Taverna si riferisce sul complotto a Roma. Continuate con i vostri messaggi e tra poco entreremo nel vivo di questo argomento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Continuano i vostri messaggi. Claudio da Roma scrive tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Scrive: i 5 stars hanno pure detto che la legge emendata non la votano, che cosa vogliono, botte piene, moglie ubriaca, siamo ai sofismi, alle trappole, senza nessuna visione dell'obiettivo, peggio di Cirino Pomicino, dice Claudio. Poi Paolo da Modena: se una coppia omosessuale equiparabile a una etero, allora anche un bel menage a trois o a quattro, se si amano, dovrebbe essere valida per la Costituzione. Insomma, Paolo la pensa così, per carità. Adesso vi ricordo le notizie più importanti della giornata e poi entriamo nel cuore del primo argomento. Unioni civili, tutto rinviato, resta il nodo delle adozioni. Alfano in pressing, dice, ha vinto il buonsenso, ma i democratici puntano sul disegno di legge senza stralcio della Step Child Adoption. E poi il direttore generale della RAI che indica i nuovi direttori di rete: Fabiano a RAI 1, dalla Tana a RAI 2 e Bignardi a RAI 3. Scelte per competenze e merito, dice, mentre il sindacato Usigrai dice è grave, sono stati scelti ancora degli esterni. Poi un nuovo attentato ad Ankara, capitale turca, un'autobomba, passaggio di soldati, morti e feriti, almeno una trentina di morti e più di 60 feriti. E poi Renzi che dice, a proposito dell'Unione Europea, faccia i compiti e non e intanto dice no a tetto sui titoli di Stato per le banche, non prendiamo ordini. Trovati i 15.000 euro contanti in casa Rizzi, e qui stiamo parlando dello scandalo Tangenti che è venuto fuori ancora ieri sulla sanità lombarda. E poi è guerra sulla privacy tra Apple e un giudice federale americano che chiede che siano decriptati i dati dell'iPhone del killer di San Bernardino, ma Apple dice non si toccano. Ancora i vostri messaggi. Virgo dice: io credo che un paese come l'Italia, con i diritti dei cittadini, abbia sempre avuto dei grandi problemi a discuterne e a riconoscerli, a partire dal divorzio, peraltro vinto, con la legge sull'aborto che sta sempre più scomparendo per quel famigerato articolo sull'obiezione di coscienza, poi dice sulla fecondazione assistita demolita dalla magistratura, qui non cambia nulla, sempre con lo sguardo miope, sempre a fare sgambetti. Allora, mentre respiro con fatica questo terribile raffreddore, vi sintetizzo un po' che cosa è successo a proposito del convulso, tormentato disegno di legge sulle unioni civili. Dopo il caos di ieri in Senato, la discussione è stata rinviata al 24-25 febbraio. Vedevo due date. Cosa è successo ieri? Quindi ne avevamo parlato abbastanza a lungo. Lo scontro, in cui sembravano tutti contro tutti, è avvenuto quando la maggioranza del PD, perché anche il PD al suo interno è spaccato, sapete che si parla dei Cattodem, dell'ala cattolica all'interno del Partito Democratico, ha chiesto, la maggioranza del PD, di votare il super canguro elaborato dal senatore del PD Marcucci, cioè un maxi emendamento che ha lo scopo di eliminare, con un balzo, per questo viene chiamato canguro, centinaia di emendamenti, cioè di richieste di modifica. Gran parte del centrodestra si è opposto, ma a sorpresa, almeno per i più, anche il Movimento 5 Stelle, che attraverso il senatore Airola ha annunciato che non avrebbe votato il super canguro per rispettare le procedure democratiche, ha irritato molto il Partito Democratico, e all'improvviso è venuta quindi a mancare in questo modo la maggioranza certa per l'approvazione di questo maxi emendamento, perché doveva rendere l'iter del disegno di legge Cirinna più snello. Il PD ha gridato al tradimento contro un Movimento 5 Stelle considerato ormai pienamente adeguato sì ai riti, alle dinamiche, insomma, della vecchia politica, quindi a giochetti di convenienza, con l'obiettivo, secondo il PD, di fare uno sgambetto al partito di maggioranza relativa, al partito di governo, e che il Movimento 5 Stelle che cosa ha detto? In realtà si tratta, dice, di un problema procedurale, di democrazia. Noi, come avevamo detto da sempre, siamo disposti a votare il disegno di legge Cirinna, però non possiamo essere il capro espiatorio del Partito Democratico per le sue debolezze. Noi vogliamo mettere insieme democrazia e diritti, quindi procedure democratiche e anche i diritti. Sentiamo una per tutti, a proposito del PD e degli attacchi del PD Movimento 5 Stelle, la senatrice PD Monica Cirinna, che appunto dà il nome al disegno di legge sulle unioni civili. Sicuramente il rinvio c'è stato, un rallentamento c'è stato, questo è dovuto all'implosione della maggioranza che avevamo costruito per colpa dei 5 Stelle e del loro passo indietro. Stupisce che Di Maio e il direttorio abbiano voluto commissariare il gruppo dei senatori con i quali avevamo lavorato bene e con coerenza fino adesso. È chiaro che ognuno si prenderà le sue responsabilità, ma il PD vuole fare la legge, vuole fare una buona legge, vuole garantire i bambini e le famiglie arcobaleno. Il Movimento 5 Stelle accusa il PD di infangare il movimento stesso, di strumentalizzare le vere ragioni per cui ieri ha preso questa decisione il movimento, ma evidentemente bisogna dire non sono forse chiare a tutti queste motivazioni, queste ragioni del Movimento 5 Stelle, se è vero che per esempio Marilena Grassadonia, che è presidente delle famiglie arcobaleno, delle famiglie appunto gay e lesbiche, ha dichiarato a Radio Cusano Campus: siamo molto preoccupati visto quello che sta succedendo, la nostra attenzione va a tutte le forze politiche che avevano detto che sarebbero state al nostro fianco, non ci aspettavamo la presa di posizione del Movimento 5 Stelle. E davanti, vi dicevo prima, al Teatro Brancaccio a Roma, dove c'è lo spettacolo di Beppe Grillo, Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center, che è una delle principali associazioni gay, ha portato vari attivisti a protestare davanti al teatro. Dice: questa è la prima tappa del Vaffa Day Gay, molti militanti sono dati appuntamento. Dice Grillo: uscirà a spiegarci le ragioni per cui ha affossato la legge sulle unioni civili facendo una mossa molto neodemocristiana, lo aspettiamo. Il Movimento 5 Stelle non può dire, dice Marrazzo, di volere le unioni civili e poi al momento di votarle fare da sponda alla Lega. Dice: questo cambio di rotta del Movimento 5 Stelle provocherà in piazza il Vaffa dei Gay. Ne parliamo con il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola. Buonasera. Buonasera, lei è radioascoltatore. Allora, senatore, spiega bene quali sono i motivi di questa decisione del Movimento 5 Stelle, perché se appunto anche i movimenti, le associazioni gay protestano, probabilmente non è stato chiaro fino in fondo il motivo. No, non lo è, perché come sempre, come avete ben detto, è sempre stato strumentalizzato. Allora, ieri è successo questo, è successo che di fronte a migliaia di emendamenti il PD aveva preparato questo super canguro, come si chiama, perché poi di canguri per i radioascoltatori è opportuno chiarire, ce ne sono di varie tipi e modalità. Questo in particolare è un tipo molto insidioso e antidemocratico, perché semplicemente è un emendamento premissivo che cancella, diciamo, la possibilità di intervenire su tutti gli articoli. Ora, io ci ho messo veramente l'anima e il mio gruppo e il cuore fin dal lavoro in commissione. Da 2 anni stiamo dietro a questo DDL e lo vogliamo portare assolutamente a casa, perché sono diritti che, come avete ben detto, sono attesi da 20 anni e vogliamo assolutamente, e c'è bisogno assolutamente di farli passare. Il problema qual è stato? Non è un semplice micragnoso impuntamento su una procedura parlamentare, è un atteggiamento del PD che di colpo si è dimostrato autoritario, dittatoriale, come sempre fa e come è sempre successo. Questo tipo di emendamenti li abbiamo già visti nella legge elettorale, nelle riforme costituzionali, hanno troncato i dibattiti. Allora, a fronte di migliaia di emendamenti, è chiaro che una maggioranza, un governo, si può prendere anche la libertà di fare questi famosi emendamenti canguro che vanno a tagliare. Se io mi trovo con 5.000, 6.000, 10.000 emendamenti, è chiaro che il mio iter legislativo sarà impossibile praticamente. Il problema è che ieri la Lega, il fatto è che ha ritirato tutti, la maggior parte dei suoi emendamenti, lasciandone circa 500, che sono un numero esiguo per un'attività parlamentare normale. E quindi noi semplicemente non è che abbiamo detto no, non votiamo la legge, a parte che questo emendamento peraltro non è ancora stato votato, quindi è venuta fuori la notizia come se noi avessimo detto di no a questa legge, e non è vero. Noi gli abbiamo chiesto: scusate, visto che questo emendamento l'avete usato per tenere in scacco chi faceva un ostruzionismo becero, che io peraltro ma anche non condivido magari personalmente, ma poi è tornato sui suoi passi, ritirate questo emendamento, votiamo questi 500 emendamenti che sono veramente una cosa fattibile in 2 giorni senza nessun problema, e rispettiamo il lavoro democratico del Parlamento. Non che io condivida le posizioni dei miei colleghi di NCD, veramente rimando al mittente i complimenti ad Adinolfi, non mi interessano. Il sì, che infatti ve l'ha fatta Adinolfi, complimenti anche altri del centrodestra. Ma per carità, certo. Il problema è che semplicemente gli abbiamo chiesto se ci sono i numeri, e ci sono, perché noi vi abbiamo sempre dato manifesto intenzioni di voto, e abbiamo anche votato in commissione, abbiamo presentato 0 emendamenti, un segno politico molto importante. Votiamola con un approccio dura normale, come si può fare. Grasso può decidere sui voti segreti, che quindi non diventano delle super trappole, come loro dicono. Se ci sono i voti per far passare questo benedetto, famoso oramai tristemente, emendamento Marcucci, ci sono anche per far passare tutti gli altri. Quindi Erola, per chiudere, visto che è stato rimandato il 24 o 25 alla fine, è stato a mercoledì prossimo, adesso io non sono stato il 24, sì, adesso, allora, quindi cosa farete proprio sinteticamente domani, oggi subito abbiamo chiesto, iniziamo a votare, perché non abbiamo ancora iniziato a votare. Io lo so quanto i cittadini sono delusi in questo momento, ma è come se io per fare beneficenza rubassi ai poveri, oppure per un sistema per dare dei diritti che sono assolutamente fondamentali, umani, dei diritti civili, uso dei sistemi autoritari che a voi non piace. Allora, comunque Erola, voi mi riconferma, ci ritorceranno contro, ecco, appunto, cioè, perché avevo visto già le proteste. Quindi Erola, io per chiudere dico, voi quindi voterete compattamente a favore quando si riprenderanno i voti a favore di Giulia Regina? Assolutamente sì. Beh, il problema del PD è che di Renzi soprattutto, è che non è abituato a far lavorare il Parlamento. Questa cosa si può portare a casa nella maniera democratica e più veloce e rapida possibile. Benissimo. Senza questo emendamento, grazie. Ve lo garantisco. Grazie senatore Erola del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi. Buon lavoro. Buon lavoro. E ora la parola all'onorevole Giuditta Pini, deputata del Partito Democratico. Ha sentito, onorevole Pini, quindi le motivazioni del Movimento 5 Stelle, come risponde? Sì, ho ascoltato con attenzione. Dunque, il problema è molto semplice. Si tratta di una legge che è in discussione da giugno 2013 al Senato, quindi stiamo parlando di circa 2 anni e mezzo. Mm. E finalmente si era arrivati a una quadra e si era arrivati in aula al Senato, dove sappiamo perfettamente che noi non abbiamo i numeri come Partito Democratico. Non è un mistero, altrimenti non avremmo neanche dato vita al governo Letta né al governo Renzi con altri partiti. Il problema è molto semplice: questa legge non ha il relatore, e questo vuol dire molto semplicemente, per il regolamento del Senato, che ci sono 10 gruppi i quali hanno 10 minuti a testa per intervento su ogni emendamento, e quindi che anche 500 emendamenti rischiano di essere 50.000 minuti. Quindi se si va troppo per le lunghe si andrebbe in ogni caso. 50.000 minuti, io non sono una grande matematica, ma non sono 48 ore, sono 35 giorni. Quindi cosa serviva questo cosiddetto canguro emendamento Marcucci? Serviva a asciugare la discussione e andare sugli emendamenti di merito, perché basta sufficiente leggersi gli emendamenti che sono stati tenuti dalla Lega e quelli presentati, quelli non della Lega, ma quelli di Giovanardi, quelli di Malan, che sono alcuni sono addirittura offensivi nei confronti delle coppie LGBT, semplicemente offensivi e discriminatori, volti a peggiorare la legge e basta, per sapere che si sta mentendo quando si dice che è uguale, si può fare in 2 giorni, altrimenti nessuno di noi avrebbe avuto una reazione così, diciamo, di così delusione forte, così grande. Onorevole Pini, adesso per quanto riguarda quindi il futuro, oggi girava un po' l'ipotesi di uno stralcio della stepchild adoption per riuscire a far passare più facilmente il disegno di legge, invece poi ho visto che avete deciso di andare avanti tutta, di tenere incluso anche questo aspetto, questo articolo che è ritenuto più controverso, quindi si andrà al 24-25 febbraio, dicevo prima, compattamente. Voi avete anche il problema del catto dem, no? Una discussione interna che credo che problema, più che interna, ormai sia pubblica da qualche mese, quindi insomma non abbiamo segreti. Però è vero che noi abbiamo lavorato in questi mesi. Io sono all'interno del tavolo nazionale che ha parlato con l'associazione LGBT per 2 anni e abbiamo lavorato per avere una maggioranza parlamentare che fosse trasversale. Ovvio che adesso manca quell'accordo, perché il 5 Stelle ieri sera ha deciso di dopo una telefonata di Di Maio, pare, di cambiare linea, e quindi adesso si torna in aula con il testo depositato in aula, che è quello con l'articolo 5, con gli emendamenti depositati in aula, e si cercherà una maggioranza per approvare la legge, perché la cosa fondamentale è che l'Italia abbia una legge che riconosce pari diritti e dignità a tutti i suoi cittadini, a prescindere dal che siano maschi, femmine, gay, etero, bianchi o neri. Chiarissimo, onorevole Pini, avrete la maggioranza secondo lei quando ricomincerete a votare? Visto che diceva il Movimento 5 Stelle. Noi lavoriamo per averla. Ah, benissimo. Buon lavoro allora. Grazie mille. Grazie onorevole Pini, grazie. Arrivederci. E adesso invece ci colleghiamo col MUDE, che è il museo di Milano, museo gestito in partnership dal comune di Milano e il gruppo 24 Ore, dove c'è una serata molto particolare, organizzata promossa dal nostro Gianluca Nicoletti, che tutti i giorni sapete su Radio 24 con Melog. C'è il museo, in questo momento la mostra della Barbie, ma Gianluca Nicoletti ha avuto un'idea strepitosa, cioè di invitare, di fare una specie di concorso tra le ascoltatrici, di presentarsi come Barbie viventi. Come sta andando la notte delle Barbie viventi, Gianluca? Te le faccio sentire, ho 200 Barbie di tutti i tipi. Battete le mani, urlate. Caspita, un successo straordinario. Ma assomigliano alla Barbie poi? Effettivamente, no, c'è qualche somiglianza? Varie tipologie. Ci sono quelle che hanno sofferto tutta la vita perché le mamme non vanno a comprare loro le Barbie. Una addirittura è stata costretta a rubare, a imbrogliare la tombola Capodanno per avere la Barbie. Mamme crudelissime, la crudeltà tipica delle madri emersa. E poi quelle felici, quelle che hanno avuto le Barbie con le mamme buone, che le hanno vestite, le hanno accudite. Poi le abbiamo divise per categorie. Adesso in questo momento stavo illustrando una sorta di quadro di contrasto. Ho tre Barbie scosciate sedute sugli sgabellini e una Barbie in tenuta vedovile, però mi devi spiegare perché. No, non è vedovile. Cos'è? Dica la. Cos'è? Il nero sfina, forse per quello. È timida perché vestita di nero. Comunque, guarda, è venuto fuori, ti dico sinceramente, che questo oggetto trastullo, balocco, fanciullesco, che è stato così demonizzato quanto modello di donna irreale, in realtà è più reale di tutti i modelli femminili che possono essere stati proposti negli ultimi 60 anni. Perché sulle Barbie si sono consumate tutte le peggiori nefandezze e tutti gli splendori della costruzione innocente di un possibile futuro di queste donne, che oggi hanno rievocato, resumato i cadaveri delle loro Barbie, le hanno portate qui per raccontare la loro vita. Questo trovo che sia un effetto meraviglioso. Ti risalutano, chiedo continuare. Ciao Gianluca, beato tra le Barbie, insomma, Gianluca Nicoletti, poi vi sentite tutti i giorni a Meloga a mezzogiorno. Io direi che al momento possiamo salutarci dopo questa incursione tra le Barbie. Leggo ancora un vostro messaggio tra i tanti sulla pagina Facebook. Giovanna dice: oggi il PD ha rinviato di una settimana la discussione della legge che ieri non ha voluto discutere perché ormai si è abituato a cangurare gli emendamenti e a ignorare l'opposizione che rappresenta la metà dei votanti. Comunque avete sentito le ragioni del Movimento 5 Stelle e quelle del PD, poi valutate voi. Ci risentiamo tra pochi istanti con tanti altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vedo ancora tanti messaggi tra chi pensa di aver capito effettivamente, ascoltando sul quello che è successo ieri, sul disegno di legge Cirinà e i strascichi di oggi, di aver capito le posizioni del Movimento 5 Stelle, il PD. Qualcuno dice, per esempio Luigi, che gran confusione, purtroppo a rimetterci sono molte persone incolpevoli, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure continuate al 349-238-6666. Vincenzo scrive: pentastellati, dilettanti, PD Essini i soliti tafazzi. Poi Paolo: ai 5 Stelle non so quanto siano delusi o convinti gli italiani, ma dopo quello che ha detto confermo che mi pento di averli votati, non li voterò più, anzi mi descriverò dal movimento stesso, non so se si può dire descriverò, ma insomma ritirerò praticamente. Vi dico quali sono le notizie più importanti della giornata se avete acceso adesso la radio invece che puntualmente alle 21. Intanto questa notizia che è arrivata in serata a proposito del caso Loris, il bambino ucciso in Sicilia, è indagato il nonno per omicidio in concorso, sarebbe stato, secondo la mamma di Loris, Veronica Panarello, l'unica per ora indagata, a parte adesso anche il nonno per l'omicidio del piccolo Loris, sarebbe stato l'amante della mamma di Loris. Turchia è di almeno 28 morti e 61 feriti, il bilancio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Ankara. Unioni Civili, rinviato l'esame del disegno di legge Cirinà, ha vinto il buonsenso, dice Alfano, ma il PD difende il testo con le adozioni, dice avanti tutto. Conte. Avete sentito qui il senatore del Movimento 5 Stelle Airola e la deputata del PD Pini. Rai nominati nuovi direttori e ne parleremo tra pochissimo. I rapporti con l'Unione Europea, Renzi insiste con l'Europa, noi compiti li facciamo e lei non prendiamo ordini sulla Brexit, dice serve un compromesso. Guerra di privacy, Apple dice no al giudice americano che chiede di decriptare l'iPhone del killer di San Bernardino, ma Apple risponde non si toccano. Calcio in Champions League, super sfida in campo all'Olimpico, la Roma tenta l'assalto al Real Madrid e poi ci aggiorniamo dopo sui risultati. Parliamo invece di Rai adesso, sono stati decisi i nuovi proposti, ma praticamente sono decisi i nuovi direttori di reti, quindi Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, eccetera. Il maggiormente noto tra questi nomi, noto ai più, è quello di Daria Bignardi, che va a dirigere Rai 3. Il direttore generale Campo Dall'Orto, direttore generale della Rai, dice che i criteri sono stati pluralismo e competenze. Sentiamolo. La nomina di alcune persone sulla base di un principio che riguarda un pluralismo culturale e basato su... diciamo che è un rinnovamento basato sulle competenze. La vera cesura rispetto al legame con la politica, con i partiti che citava Airola, che avviene in questo momento qui, è legato al fatto che stiamo prendendo persone competenti in modo tale che il rinnovamento sia basato su quel tipo di... Quindi pluralismo e competenze, dice Dall'Orto, però non sono mancate le polemiche. Lusigrai, che è il sindacato Rai dei giornalisti, dice ma questo è uno schiaffo alle risorse interne dell'azienda. È vero che c'è questa rivoluzione con due donne, un quarantenne, quindi Rai 1 uno giovane, poi Rai 2 e Rai 3 due donne. Ma Andrea Biondi, giornalista del Sole 24 Ore, come commenti questa scelta dei direttori e le relative polemiche anche? Eccoci, buonasera a tutti. Ciao Andrea. Diciamo è una scelta che per un verso scelte che per un verso erano attese e per un verso insomma in qualche modo segnano proprio l'arrivo della nuova Rai targata Campo Dall'Orto. Il nuovo direttore generale, diciamo il direttore generale con i nuovi poteri da amministratore delegato dopo la riforma, ha già cambiato alcune pedine. Pensiamo per esempio ad Antonio Di Bella, che è andato direttore di Rai News 24. Come valutare questa cosa? Sicuramente il cambiamento c'è stato e genera anche delle polemiche, guardiamo per dire il caso della direzione di Rai 1. A Rai 1 c'era Giancarlo Leone, è stato sostituito nonostante i buoni risultati di della rete nel corso dell'anno anche complessivamente, di Sanremo, insomma. Però alla fine era nelle cose aspettarsi un cambiamento di questo tipo. Più che altro adesso bisognerà chiedersi che tipo di Rai sarà, e probabilmente la risposta a questa domanda non si ha a valle di queste decisioni di oggi, ma si avrà quando si conoscerà il piano industriale e anche a breve quando ci sarà il rinnovo della concessione. Senti, sulle polemiche delle risorse interne prese, dice ancora dall'esterno, criticano i giornalisti Rai, però tu dici era una cesura col passato e quindi è sempre in linea con il rinnovamento che aveva annunciato Campo Dall'Orto, insomma, questa scelta. Allora, anche le polemiche erano nelle cose, c'era da aspettarsele, soprattutto per dei nomi scelti dall'esterno all'interno di un'azienda complessa e corposa come la Rai. Ci sono, diciamo, queste due donne di comprovata fama nel settore televisivo, che sono Ilaria Dallatana, che è proveniente da Magnolia, piuttosto che Daria Bignardi, che tutti conosciamo. Gabriele Romagnoli è un giornalista da Rai Sport, è un giornalista molto apprezzato, meno conosciuto forse Andrea Fabiano, che comunque era il vice di Leone alla prima rete già da febbraio del 2015. Quindi voglio dire, delle nomine che comunque vogliono segnare una cesura rispetto al passato. Ripeto però, queste nomine andranno lette poi anche alla luce della Rai che verrà, del la Rai che verrà si conoscerà con il piano industriale e con il rinnovo della concessione servizio pubblico. Questo è un passaggio non da poco che avverrà in primavera, perché dobbiamo ricordare tutte le polemiche di questi giorni legate alla pubblicità, al fatto che la Rai avrà maggiori introiti dal canone con il nuovo canone in bolletta, anche se per quindi parecchi operatori, sì. E quindi parecchi operatori, i più importanti da Cairo a Mediaset, hanno subito fatto sentire la loro voce dicendo la Rai avrà qualcosa come 300 milioni di euro in più all'anno rispetto a quelli che già ha. A questo punto dovrà ritarare, dovrà essere ripensata, perché forse il sistema ha bisogno di una Rai senza pubblicità o con qualche rete senza pubblicità. Chiaro. Staremo a vedere, ma quello sarà un passaggio molto importante. Aspettiamo di vedere. Grazie Andrea Biondi. Ciao Andrea. A voi, grazie. Viabilità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E tra poco ve le ricordo velocemente, poi volevo leggere anche questo WhatsApp piccolissimo, ma dice: la legge di iniziativa parlamentare, quella del disegno di legge Cirinna, non è detto che debba votarlo la sola maggioranza, inoltre gli emendamenti sopravvissuti lo sono di facciata, basta leggerli sul web, chiaramente è una mossa politica dei 5 Stelle, dice Peh, si firma Peh, continuate sul 349-238-6666 a mandare i vostri messaggi sulle posizioni del Movimento 5 Stelle e del PD che abbiamo cercato di chiarire con due esponenti parlamentari poco fa, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma per quanto riguarda le notizie più importanti, naturalmente appunto il tema delle unioni civili, ormai è stata rimandata la discussione tra il 24 e il 25 febbraio, i Dem però puntano sul disegno di legge senza stralcio della stepchild adoption. Abbiamo parlato anche delle nomine RAI con il direttore generale Campodall'Orto che indica i direttori di rete, Fabiano a Rete 1, Dalla Tana a Rete 2 e Bignardi RAI 3. L'autobomba ad Ankara è scoppiata questa sera al passaggio di un convoglio di soldati, circa una trentina di morti e una sessantina di feriti, la Turchia chiede una zona sicura. E poi Renzi che dice: l'Unione Europea faccia i compiti e noi li abbiamo fatti. Europa 24 notte. A proposito di Europa, parliamo di agroalimentare. Sull'agroalimentare sono già pronte le proposte italiane in vista del prossimo Consiglio europeo, un pacchetto di misure che l'Italia presenterà al commissario europeo dell'agricoltura, Phil Hogan, già giovedì, e che secondo il ministro delle politiche agricole Martina dovrebbero aiutare settori particolarmente colpiti dalla crisi come il lattiero caseario e l'ortofrutticolo. Ogni paese europeo dovrà presentare le proprie proposte entro il 25 febbraio in vista del Consiglio europeo dell'agricoltura del 14 marzo. Dai pomodori alla carne, dalla zootecnia al latte e formaggi, passando per gli ulivi infestati dalla xylella fastidiosa, l'Italia si mobilita a difesa dell'agroalimentare e chiede interventi concreti da parte dell'Europa in vista del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura di marzo. In particolare su pomodori e olio, il ministro delle politiche Martina spiega che Roma ha già chiesto a Bruxelles di poter attivare la clausola di salvaguardia nell'accordo con il Marocco insieme ad un innalzamento del prezzo di ritiro, ma un pacchetto di proposte organiche verrà presentato giovedì alla Commissione. Noi puntiamo al Consiglio europeo di marzo, dove la Commissione dovrà rendere evidente nuove azioni di tutela soprattutto di alcuni settori che stanno soffrendo tantissimo, penso al lattiero caseario e all'ortofrutta. Abbiamo con insistenza posto questo tema, entro giovedì prossimo presenteremo alla Commissione un pacchetto di proposte, quindi formalizzeremo le proposte italiane per affrontare queste due crisi che sono crisi di mercato europeo, non sono certo legate al singolo paese. Per esempio che proposte? Beh, stiamo lavorando, ad esempio io penso che si apre una finestra importante che in qualche modo deve vedere la Commissione protagonista di una discussione su metodi e meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in questo caso del latte, su uno scenario europeo. C'è un grande tema legato alla promozione che va sviluppato di più dalla Commissione. C'è un grande tema, secondo me, legato all'utilizzo di strumenti come il de minimis, magari aggiornando la legislazione europea in maniera temporanea per poter far fronte ad alcuni casi di crisi evidentissimi, penso in questo caso ancora al lattiero caseario. Stiamo lavorando a un pacchetto di proposte che giovedì presenteremo al commissario. Intanto continua anche la battaglia italiana per l'etichettatura dei prodotti alimentari, anche di questo tema si parlerà nel Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura fissato per il 14 marzo. Martina è fiducioso che alla fine in Europa si potrà arrivare all'indicazione obbligatoria sull'origine delle materie prime, strumento fondamentale per combattere la contraffazione dei prodotti made in Italy per eliminare distorsioni nella filiera. Trasparenza dunque è la parola d'ordine anche per la Coldiretti, che oggi nel rapporto ha lanciato l'allarme sulle truffe nell'agroalimentare, in particolare quelle online. La falsificazione e l'imitazione del made in Italy nel mondo supera un fatturato di 60 miliardi di euro, con quasi 2 prodotti apparentemente italiani su 3 in vendita sul mercato internazionale. Dai salumi alle conserve, dai vini e formaggi, nessun settore è escluso. Il presidente presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo. All'Europa chiediamo veramente un atteggiamento coraggioso di attenzione ai consumatori e alla domanda di trasparenza nella filiera, che non viene più solo dagli agricoltori di Coldiretti ma viene da tutto il nostro paese italiano e viene oggi anche da altri paesi europei importanti come la Francia, che chiedono ad esempio come noi l'origine in etichetta in tutto il cibo che acquistano i nostri consumatori. Alessandra Schepi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E c'è una guerra sulla privacy tra Apple e il giudice federale, le autorità americane che indagano sulla strage in California, vi ricordate, di San Bernardino, nella quale furono uccise 14 persone. Cosa chiede il giudice federale Apple? Di decriptare i dati dell'iPhone, di quel telefono del killer. Il nostro Enrico Pagliarini, che voi conoscete benissimo, 2024, la sua trasmissione ogni venerdì dopo Effetto Notte, che dici? Si può fare? Perché? Buonasera, allora non si può fare. Allora, questo è un capitolo di un dibattito molto ampio che c'è negli Stati Uniti tra governo ed FBI, sostanzialmente da una parte, e le aziende della Silicon Valley dall'altra, Apple e Google in modo particolare. Che cosa appunto chiede il giudice? Dice: dateci la tecnologia per riuscire ad entrare in questo telefono. Apple dice: no, non ce l'abbiamo, non è che non ve la vogliamo dare, non ce l'abbiamo perché è un po' come il costruttore di porte che non si tiene una chiave in casa. Costruttore di serrature, non si tiene una chiave in azienda e di notte potrebbe venire a casa tua per aprire la tua porta, magari su domanda della polizia. Dice: noi non abbiamo questa tecnologia perché il sistema è fatto in modo che solo tu puoi aprirlo e puoi chiuderlo, quindi anche di fronte a un terrorista non abbiamo questa possibilità. Quindi non è più tanto un problema di privacy, un diniego per dire no, noi rispettiamo, è proprio perché non possono, tecnicamente non perché può. È stato pensato così. Allora il governo dice: beh, però voi potreste costruire i software tenendovi una porta aperta, si chiamano backdoor, cioè tenendovi una soluzione tecnica per poter entrare su richiesta delle forze dell'ordine nel telefono. Quindi di un suggerimento persona. Per il futuro a questo punto? Sì, certo, perché in questo caso non si può più fare a meno che quel telefono venga aggiornato, ma insomma questo è impossibile perché essendo bloccato il telefono. Però questo è un dibattito che va avanti da tanto tempo, però le aziende come Apple dicono: no, noi non lo vogliamo fare perché se questo software che noi teniamo in cassaforte, che al massimo diamo all'FBI su ordine del giudice, andasse per chissà quale strana ragione in mano a qualche malintenzionato, entrerebbe su tutti i telefoni del mondo. Quindi effettivamente la questione è molto abbastanza delicata e condivisibile per certi versi. Certo, poi, cioè, però chiaramente poi questo si scontra col fatto di cui stiamo commentando, perché effettivamente uno dice: beh, però in questo caso sarebbe utile. Però loro giustamente dicono: ho capito, ma se esiste per questo caso potrebbe esistere anche per tutti gli altri. Mi sembra che al momento non se ne esca. Non se ne esca, no, non è. Però la cosa curiosa è che il giudice dice: dateci questa tecnologia, convinto che la tecnologia ci sia. Apple dice: no, non ce l'abbiamo. Poi che sia vero non lo sappiamo, perché nessuno sa se effettivamente è vero. Segreti anche. Grazie, sì. Enrico Pagliarini, ritornate venerdì. Ciao Enrico. Mentre da Ricci lo ritroviamo subito perché ci deve aggiornare sulla Roma che ha fatto in Champions. Sì, qua rispetto ai segreti che stavate sviscerando con Enrico, la chiave tattica del match all'Olimpico è abbastanza chiara. Siamo al 54esimo, il Real Madrid attacca, la Roma si difende e prova a ripartire quando è possibile. Il risultato, che è la cosa che poi non è certo secondaria rispetto alla partita, è ancora sullo 0-0. Direi un risultato alla fin fine finora positivo per la Roma, perché lascerebbe aperte le porte di una qualificazione che sarebbe possibile comunque che il Real difficile. Non è riuscito ancora a fare un gol. Sì, questa è un po' la notizia, ma devo dire che non ha creato neanche tantissime occasioni, pur avendo Roberta sempre il controllo della gara. E il gol invece è riuscito a fare il Wolfsburg sul campo del Ghent nell'altra gara di questa sera, valida per l'andata degli ottavi di finale. Una bellissima conclusione di Draxler, che a lungo è stato quest'estate, lo ricorderai tu da appassionata, oggetto del certamente desiderio della Juventus. Che desideri. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Noi ci risentiamo alle 22.